danza stanotte, sei bella in un manto di stelle. In cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlano d'amor. Intorno c'è tanta poesia per te, vita mia, sospira il mio cuore. Sull'armo d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontan. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Malinconia adornati di pampini e glicini in fiore, stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Geremonia non essere nate, madonne ascoltate, son mille canzoni. Un vostro sorriso è la vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Sopra i lungarni senti un'armonia d'amore, sospirano gli amanti stretti stretti cuori.